Benvenuti a The Debate. Oggi ci immergiamo in un'analisi, direi complessa e per molti versi profondamente scomoda. Vogliamo esplorare l'intersezione tra il linguaggio che usiamo, la classe sociale a cui apparteniamo e la cosiddetta grammatica inclusiva. E il nostro punto di partenza è un testo davvero formidabile, cioè Linguaggio inclusivo, esclusione di Brigitte Vasallo. Un libro che ben non fa decisamente sconti a nessuno, costringe chiunque lavori con le parole a guardarsi allo specchio. Assolutamente. E la domanda centrale che ci pone Vasallo e che guiderà la nostra discussione oggi è radicale. L'adozione di un linguaggio inclusivo accademico, e sai, rigorosamente normato, rappresenta davvero uno strumento di emancipazione? O si tratta piuttosto di un capitale culturale performativo che finisce per escludere le classi lavoratrici, distraendo in modo drammatico dalla cruda realtà materiale? Io, in profondo accordo con la tesi del libro, sono convinto che l'ossessione contemporanea per la raffinatezza linguistica e l'inclusione accademica si configuri come una vera e propria missione civilizzatrice borghese, un meccanismo che aliena la vera voce subalterna. E io, pur riconoscendo la brillante e direi necessaria analisi di classe offerta da Vassallo, mi trovo in disaccordo parziale con le sue conclusioni. Sono convinta che difendere l'intervento linguistico formale e la sovversione dei codici dominanti sia fondamentale. Non credo si tratti semplicemente di un vezzo elitario, ma di strumenti politici essenziali per smantellare l'egemonia patriarcale e coloniale. Certo, i limiti di classe insiti nell'accademia sono innegabili, ma l'alterazione del linguaggio rimane una componente ineludibile della lotta strutturale. Sai, credo che per sviscerare bene questo disaccordo dobbiamo partire proprio dal cuore della tesi di Vassallo. Lei ci dice una cosa molto dura. Il capitale culturale non è vera saggezza, non è cultura nel senso comunitario o organico del termine. È prima di tutto, un capitale, e in quanto tale serve a creare scarsità e ad escludere. Intendi dire che funziona come un filtro d'ingresso per i salotti buoni della società? Esatto. L'accademia e le elite culturali impongono costantemente un linguaggio considerato corretto, raffinato, ortodosso. E questa imposizione ha un costo umano altissimo. Costringe chi proviene dalla vera povertà a un processo di, di doloroso travestimento. Se vuoi accedere a spazi di dibattito o persino di semplice sopravvivenza istituzionale, devi letteralmente cancellare la tua lingua madre. Devi nascondere i dialetti, piallare gli accenti, correggere i cosiddetti difetti di pronuncia e abbandonare il linguaggio volgare. E come leghi questo al dibattito specifico sul linguaggio inclusivo? Perché la critica all'Accademia in generale è chiara. Si lega perché questa stessa dinamica elitista si è estesa al dibattito sul genere. La ricerca ossessiva di un linguaggio di genere perfetto, come trovare la desinenza universale o la vocale magica che includa tutti, è in gran parte un'illusione. Vassallo lo inquadra perfettamente nel contesto del semiocapitalismo. Viviamo in un sistema che ci spinge a produrre costantemente segni simbolici, dibattiti linguistici infiniti, proprio per evitare di modificare le condizioni materiali che generano la disuguaglianza. Ci convinciamo che cambiando una parola stiamo cambiando il mondo, ma in realtà stiamo solo accumulando un capitale informazionale che pochissimi, là fuori, nel mondo reale, possono permettersi di padroneggiare. Guarda, la critica al capitale culturale come strumento di selezione è ineccepibile. L'Accademia sa essere spietatamente classista. Tuttavia, mettere in discussione o addirittura respingere la codificazione linguistica inclusiva rischia di privarci di un'arma vitale. Un'arma vitale o un'arma spuntata che usiamo solo tra di noi per sentirci, sai, bravi progressisti. Un'arma reale. Sovvertire il maschile generico, creare nuovi termini, non è un semplice gioco da salotto borghese per sentirci con la coscienza pulita, è una rottura necessaria dell'illusione di un neutro che è sempre stato profondamente patriarcale. Il maschile universale non è mai stato oggettivo e romperlo grammaticalmente significa denaturalizzare un potere che altrimenti rimarrebbe invisibile. Ma non pensi che il costo di questa rottura grammaticale lo paghino sempre gli stessi? Voglio dire, chi non ha gli strumenti o il tempo per aggiornare il proprio vocabolario ogni 6 mesi? L'ingresso nell'accademia e l'assimilazione linguistica sono indubbiamente processi dolorosi. C'è una violenza innegabile nel dover dissimulare le proprie radici, come descrive bene Vasallo. Ma dominare i codici del potere è spesso l'unico modo per il subalterno di non rimanere politicamente isolato. Costringere il sistema a un dialogo strutturale richiede, purtroppo o per fortuna, di parlare una lingua che il sistema non possa liquidare con una scrollata di spalle. Rifiutare a priori l'intervento formale sul linguaggio significa cedere il campo di battaglia senza nemmeno provare a combattere. Eppure c'è un esempio nel libro che trovo folgorante per capire cosa succede quando la voce subalterna rifiuta categoricamente questo travestimento di cui parli. Vasallo cita il caso di Belén Esteban. Ah, certo, un'icona pop in Spagna, ma decisamente divisiva. Assolutamente. Per chi non avesse familiarità con la televisione spagnola, la Esteban è praticamente l'archetipo della donna di periferia, quella che in Spagna chiamerebbero con un termine carico di disprezzo di classe la Choni o la Marusha. Una donna eterosessuale della classe operaia che ha costruito una popolarità immensa nei programmi di intrattenimento nazional popolare, la cosiddetta telebasura, cioè la TV spazzatura. Una figura che ha accumulato un capitale economico enorme, senza dubbio. Esatto, è diventata ricchissima. Ma ecco il punto cruciale sollevato dal libro. Nonostante i soldi, non ha mai modificato il suo linguaggio, non ha ripulito il suo accento, non ha raffinato i suoi modi. E per questo motivo le élite culturali e intellettuali la disprezzano ferocemente. Lei ha creato uno spazio di rappresentazione visibile, enorme, per le donne della classe operaia, senza assimilarsi al linguaggio colto. Mentre gli intellettuali, di estrazione popolare, devono fare l'esatto opposto. Precisamente. L'autrice stessa ammette che gli intellettuali che provengono dalla povertà devono costantemente infiltrarsi, nascondendo le proprie radici per non essere sminuiti. E Vasallo porta un altro esempio potentissimo. Il primo congresso di femminismo romaní. Le donne gitane presenti hanno deliberatamente rifiutato i tecnicismi accademici. Carmen Fernandez, una delle partecipanti, ha spiegato che usare parole complesse come estrattivismo, quando si intende semplicemente rubare, è di fatto una forma di razzismo e colonialismo. Loro vedono l'Accademia non come uno spazio sicuro, ma come un luogo estraneo che esige un linguaggio incomprensibile per la base. Questo dimostra chiaramente che il capitale culturale è un filtro progettato per silenziare chi non si piega all'estetica borghese. Io la vedo da un'angolazione diversa. O meglio, capisco il fascino viscerale di questa resistenza. Ma dobbiamo chiederci se questa visibilità mediatica di cui parli si traduca in vero potere politico strutturale. In che senso? Belén Esteban è ascoltata da milioni di persone. Ha una piattaforma enorme. Sì. È vero. Belén Esteban non ha alterato i suoi modi e questo genera uno schifo di classe da parte delle élite. Ha spezzato il nesso tradizionale tra ricchezza e raffinatezza borghese. Ma il sistema televisivo e spettacolare l'accetta proprio perché la confina nel recinto dell'intrattenimento. È tollerata perché è un fenomeno folcloristico, non una minaccia sistemica. Come ci ricorda l'antropologa Rita Laura Segato, la lingua subalterna deve indossare un travestimento, una maschera, quando entra nella sfera pubblica della modernità, se vuole essere decodificata e presa sul serio dal potere. Quindi mi stai dicendo che per smantellare la casa del padrone devi per forza usare gli attrezzi del padrone, per citare Audre Lorde, ma ribaltando nel senso. Ti sto dicendo che se ci si rifiuta ostinatamente di imparare i codici egemonici, il rischio è una pericolosa romanticizzazione della marginalità. Torniamo all'esempio del congresso romaní. Certo, dire rubare è infinitamente più diretto, più viscerale di estrattivismo, ma estrattivismo descrive una complessa catena globale di sfruttamento strutturale, di logiche di mercato e di espropriazione sistematica che va ben oltre il semplice furto individuale. Rifiutare questi strumenti analitici perché considerati troppo accademici significa limitare la propria capacità di colpire meccanismi profondi del sistema. Se il subalterno non usa i codici di decodificazione del potere, la sua voce rischia di rimanere un urlo incomprensibile che il sistema archivia facilmente come semplice rumore di fondo. È un punto interessante, anche se lo inquadrerei diversamente alla luce della tesi del libro. Il problema non è la capacità di analisi del subalterno, il problema è la trappola mortale del semiocapitalismo di cui parlavamo prima. Spieghiamo bene questo concetto agli ascoltatori perché è veramente centrale nel testo di Vasallo. Volentieri. Il semiocapitalismo è un sistema economico e culturale che ci fa credere che la soluzione ai problemi materiali sia puramente simbolica. È la deriva del soluzionismo, l'ideologia per cui cambiare una vocale finale o inventare un nuovo termine accademico risolva magicamente la disuguaglianza concreta. Vasallo porta un esempio, agghiacciante a riguardo. Il caso del bambino canadese nato senza genere. Ah, il caso del 2017 con la Gender Free ID Coalition. Proprio quello. Nel 2017 questa coalizione cerca di compiere un atto politico fortissimo, negando l'assegnazione di sesso e genere sui documenti statali di un neonato. Era un attacco diretto alla burocrazia dello Stato, un atto materiale. Ma cosa fa il sistema spettacolare? Invece di riconoscere la resistenza politica contro l'identificazione statale, i media trasformano immediatamente la notizia nel primo bambino al mondo nato senza genere. Hanno cannibalizzato la notizia, in sostanza. L'hanno letteralmente divorata. Hanno catturato l'atto radicale e hanno trasformato il non genere in una nuova scintillante categoria di mercato all'interno dello stesso identico sistema binario che si voleva distruggere. La rivoluzione non sarà televisata, diceva Gil Scott Heron, ma il semiocapitalismo spettacolarizza tutto. E qui entra in gioco la nostra ossessione per il linguaggio inclusivo. L'inflazione linguistica fa sì che produciamo migliaia di neologismi credendo di emanciparci. Ma in realtà stiamo solo lavorando gratis per un sistema che accumula valore dai nostri segni. Discutiamo all'infinito su Twitter di desinenze, mentre la precarietà materiale, la povertà e l'esclusione di classe rimangono assolutamente intatte. Mi dispiace, ma non ne sono convinta. Lascia che ti spieghi perché l'intervento simbolico è tutt'altro che un'illusione, anche di fronte a questa capacità fagocitante del mercato. Sono tutto orecchi, perché la sussunzione mi sembra totale a questo punto. Certo, il semiocapitalismo cerca sempre di digerire ogni forma di ribellione, trasformandola in merce. È la sua natura. Ma l'intervento sul linguaggio genera uno straniamento vitale, una crepa nel senso comune che non può essere richiusa così facilmente. Modificare una desinenza, usare la E o la X in certe lingue, o sdoppiare i generi, non nasce da una pretesa borghese di perfezione universale. Serve a creare rumore. Serve a creare un disagio sintattico e mentale profondamente necessario. Come evidenzia Vasallo stessa in altri passaggi, la pragmatica del linguaggio è fondamentale. Non conta solo cosa dici, ma l'effetto tangibile che la parola ha sul mondo. Ma questo effetto sul mondo non rischia di rimanere confinato nelle aule universitarie? Tra chi ha già letto Butler e Preciado? Non se guardiamo alla storia dei movimenti. Pensa al lavoro monumentale di Silvia Federici in Calibano e la Striga. Federici ha risignificato il termine strega, bruja in spagnolo. Ha preso una parola che per secoli è stata usata per giustificare un femminicidio di massa, un genocidio, e l'ha trasformata in un simbolo potente di resistenza anticapitalista e di sapere femminile. Lo stesso vale per l'uso orgoglioso e rivendicato della parola marimacho nei movimenti femministi e queer di lingua spagnola. Riprendersi l'insulto, insomma. Esatto. E questi non sono solo segni vuoti per il mercato del semiocapitalismo. Sono riscritture della realtà. Le battaglie simboliche alterano l'orizzonte del possibile. Deleuze e Guattari suggerivano che le parole non sono la vita, ma danno ordine alla vita. Se non scardiniamo la struttura semantica patriarcale, se non creiamo parole nuove o non diamo nuovi significati a quelle vecchie, non possiamo nemmeno immaginare le coordinate del cambiamento materiale che tu auspichi. Capisco perché la pensi così, ma lascia che ti offra una prospettiva diversa proprio sulla questione della leggibilità del subalterno. Perché c'è un lato oscuro in questa enfasi sul vocabolario. Quando ci concentriamo quasi esclusivamente sulla risignificazione verbale e sulle battaglie puramente simboliche, permettiamo all'elite di appropriarsi dell'estetica subalterna senza mai correrne i veri rischi materiali. In che modo l'estetica si separa dal rischio materiale? Spiegami meglio. Nel 1926 questa giovane donna indiana si suicidò. Aveva partecipato a un gruppo indipendentista e aveva fallito un incarico politico. Sapeva che uccidendosi la società avrebbe subito insinuato che lo faceva per nascondere una gravidanza illegittima, che era il classico modo per screditare le donne nella sua cultura. Quindi escogita un modo per smentire questa narrativa in anticipo. Esatto. Aspettò deliberatamente di avere le mestruazioni prima di impiccarsi. Il suo messaggio era inciso nel suo stesso corpo. Era un atto materiale inequivocabile. Sto sanguinando. non sono incinta. La mia morte è una scelta politica. Eppure, quel messaggio fu completamente cancellato dalla storia. Perché incomprensibile. Incomprensibile al patriarcato, sì. Non rientrava nelle narrazioni egemoniche dell'Illit e quindi, pur essendo un fatto materiale innegabile, è letteralmente evaporato. E questa disconnessione tra realtà materiale e narrazione borghese continua oggi. Nel libro c'è un esempio formidabile legato alla serie L'amica geniale. Ah, la scena del matrimonio. Perfetta, vero. Spieghiamola. C'è Nino, il classico intellettuale borghese di sinistra, che si presenta al matrimonio di operai senza cravatta, con i capelli spettinati ad arte, ostentando la sua presunta superiorità anticapitalista. Nel frattempo c'è Antonio, il vero operaio, che indossa un abito economico che gli sta male, ma indossa la cravatta perché per lui quel vestito rappresenta rispetto e uno sforzo economico enorme. Cosa succede? L'élite trasforma l'essere senza cravatta in un simbolo di levatura intellettuale, rendendo illeggibile e di fatto ridicolizzando il reale sforzo della classe operaia. La realtà materiale viene sempre piegata, distorta, per adattarsi alla narrativa di chi detiene il potere di definire il vocabolario corretto. È un'argomentazione affascinante, ma hai considerato che il tragico fallimento del messaggio di Bhubaneswari Baduri dimostra esattamente il contrario di quello che sostieni? In che modo il fallimento di un atto materiale così potente darebbe torto alla preminenza della materialità? Perché dimostra in modo lampante perché abbiamo un bisogno disperato di evolvere i codici del linguaggio e della teoria. Pensaci bene. Baduri ha usato il proprio corpo materiale, il sangue mestruale, la realtà più innegabile e fisica possibile, per inviare un messaggio politico. Ma quel messaggio si è perso, è stato inghiottito dal vuoto della storia. Perché è successo? Perché mancava un quadro teorico. Mancava quello che potremmo definire un marco di discorso, una cornice di discorso egemonico o controegemonico, che fosse in grado di decodificarlo, di leggerlo e di accoglierlo. Quindi mi stai dicendo che la colpa è della mancanza di teoria, non dell'eccesso di teoria? Esattamente. Senza la teoria, senza l'articolazione linguistica, che molto spesso, lo ammetto senza problemi, viene forgiata nei laboratori delle accademie e delle istituzioni, i gesti di pura resistenza materiale rimangono tragicamente illeggibili. Costruire nuove verità simboliche, imporre un linguaggio inclusivo, sviluppare una complessa teoria di genere non è un esercizio di stile. È il prerequisito assoluto per far sì che domani atti come quello di Baduri vengano compresi. È il prerequisito affinché i corpi subalterni ottengano esistenza e ascolto nella sfera pubblica. Se non nominiamo il non binario, se non concettualizziamo accademicamente il femminicidio o l'intersezionalità, i corpi continueranno a cadere nel silenzio. Non sono convinto da questa linea di ragionamento perché credo sottovaluti pesantemente il vero costo di questa operazione. Affidare la decodifica dei corpi subalterni a un vocabolario elitario e accademico significa che l'emancipazione avverrà sempre e solo alle condizioni dettate dal padrone. Ma le parole possono essere hackerate, possono essere sovvertite dall'interno. Fino a un certo punto. Riprendendo le parole della scrittrice Anna Paceco, che Vasallo cita nel testo, la cultura finisce per essere spesso solo una questione di contatti, un club esclusivo. Il linguaggio non deve essere monopolizzato come capitale culturale. L'inclusione linguistica, questa rincorsa affannosa al termine tecnicamente perfetto e accademicamente ineccepibile, non deve in alcun modo oscurare la cruda urgenza di sradicare la povertà e l'esclusione di classe, ed è un'incombenza che buona parte della sinistra intellettuale contemporanea sembra aver rimosso dalle proprie priorità. Nessuno sta dicendo di abbandonare la lotta materiale per fare solo accademia. Le due cose devono viaggiare insieme. Eppure succede. Il vero respiro emancipatorio dovrebbe rinunciare una volta per tutte a queste dinamiche da missioni civilizzatrici, quelle in cui i colti insegnano ai poveri come devono parlare per essere considerati degni di avere dei diritti. La vera emancipazione, come ci suggerisce la riflessione di Vasallo, accetta e onora l'errore, il dialetto, persino il cattivo gusto, perché è lì, in quel fango linguistico, che risiede la verità senza filtri di chi non ha nulla da perdere se non la propria subalternità. Comprendo profondamente questo richiamo alla materialità ed è impossibile non empatizzare con il rispetto dovuto alla lingua madre del subalterno. Nessuno nega, e io per prima non lo faccio, che la violenza di classe si manifesti in modo atroce e quotidiano nell'umiliazione linguistica. Correggere la pronuncia di un lavoratore è un atto di violenza. E allora perché insistere sulla necessità di questo linguaggio codificato? Se riconosciamo l'esclusione, perché perpetuarla? perché sono convinta che la manipolazione strategica e se colta dei codici dominanti rimanga un'arma ineludibile. La rottura simbolica e grammaticale, usare una schwa, imporre un pronome, parlare di estrattivismo anziché di furto, è incompleta e insufficiente se non è accompagnata da una ridistribuzione della ricchezza materiale. Su questo siamo d'accordo, ma rimane una componente essenziale per destrutturare l'egemonia. Rivendicare il diritto a intervenire sul linguaggio, a modificarne le desinenze, a creare un disagio sintattico e semantico nella società ben pensante, significa rifiutare la pacificazione. È una guerra di trincea all'interno della prigione del semiocapitalismo. Non possiamo permetterci di deporre le armi simboliche solo perché non sono perfette o perché nascono in contesti privilegiati. Penso che, arrivati a questo punto, possiamo trovare un punto di profonda convergenza su una verità innegabile. Il linguaggio non è mai, e non è mai stato, uno specchio passivo della realtà. Mai? Non è un dizionario neutro appoggiato su un tavolo. Esatto. È un campo di battaglia politico estremamente intenso. È uno spazio attraversato da tensioni feroci che legano indissolubilmente la classe sociale, l'espressione del genere e le forze voraci del capitalismo moderno. Ogni singola parola che scegliamo di pronunciare o che ci viene imposto di pronunciare per essere accettati porta con sé la storia di un dominio e al contempo la possibilità viva di una resistenza. Concordo pienamente e credo che il materiale che abbiamo esplorato oggi, l'opera di Brigitte Vasallo, possieda un valore intellettuale enorme proprio per questo, per la spietata lucidità con cui smaschera queste dinamiche incrociate. Ci sfida a non accettare alcuna soluzione facile o puramente estetica. Ci invita a scorgere i fili invisibili del potere e dell'esclusione di classe anche lì, e forse soprattutto lì, dove credevamo di aver trovato una pura e semplice emancipazione. C'è ancora tantissimo da esplorare in questo testo sulle intersezioni tra la lingua che abitiamo ogni giorno e le strutture di potere che ci opprimono. Non c'è dubbio, abbiamo solo scalfito la superficie di un tema immenso. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a confrontarsi direttamente con l'opera di Vasallo, a riflettere sulla propria posizione all'interno di questi complessi schemi linguistici e di classe e, come sempre, a trarre le proprie conclusioni autonome. Ringraziamo chi ci ha seguito in questa esplorazione profonda e senza sconti. Alla prossima!